versione di Oscar, di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di 24. Mercoledì, siamo al 2 di aprile. Auguri ai Francesco che oggi festeggiano, perché è uno dei tanti, diversi San Francesco, San Francesco da Paolo, eremita. E il fatto della giornata è quello su cui, se volete, oltre all'argomento del giorno della trasmissione, potete chiamare, giusto per fare un rapido sondaggio di come alcuni di voi la pensano, chiamando l'800240024, perché vedrete che anche domani mattina Radio 24 farà trasmissione dedicata a questo, perché vi troverete i giornali invasi da questa notizia, che è un po' la notizia del giorno, con questa raffica di arresti ordinate dalla procura, disposti dalla procura di Brescia, accolti dal GIP, sulla vicenda di cui molte volte ci siamo occupati ancora lunedì, e cioè quella dell'indipendentismo veneto. Forse molti di voi sanno, altri no, che questa mattina sono state disposte 24 misure cautelari di limitazione alla libertà personale, ci sono altri 27 poi indagati, 51 persone. L'accusa è gravissima, perché l'accusa è di associazione a fine di terrorismo, e la procura di Brescia, incardinandosi una competenza per la rete indipendentista non solo veneta, ma parla di un progetto denominato Alleanza, che unirebbe indipendentisti veneti, bresciani, sardi, con contatti in tutta Italia, campani, calabresi e così via, e quindi si è intestata questa competenza per via di questa cellula bresciana. La procura ha rivelato che alcuni di questi arrestati stavano trasformando un trattorone, un mezzo spostamento terra, in una specie di blindato, un po' come il vecchio tanco del 97 che fece quell'operazione dimostrativa a Piazza San Marco, ma la procura è convinta che si trattasse di procurarsi armi leggere, pesanti, in vasta scala, che si trattasse di fare operazioni militari, insomma è convinta che ci sia qualche cosa del tutto paragonabile alle Brigate Rosse. Non li abbiamo usati questi reati per le reti jihadiste in Italia. Allora, poiché io sono convinto che bisogna perseguire con tutti i rigori di legge qualunque delitto che riguardi armi tenute illegalmente, tanto più se costruite, però cacciate illegalmente, non lo so se invece applicare dei reati associativi di terrorismo sia ciò che ci serve per dare la risposta vera a una protesta, quelli che poi seguono questo argomento e gente che protesta per gli eccessi della spesa e quella fiscale. Io credo che sia una sproporzione, però sarei curioso di vedere come la pensate voi alle prime notizie di questa retata, e con un'accusa così grave come quella di terrorismo ne facciamo nuovi martiri, quindi se cercavano pubblicità la ottengono, e credo che diamo una risposta un po' sproporzionata, un po' sbagliata. Però oggi ci occupiamo invece in trasmissione di un altro tema che riguarda le piccole imprese, come stiamo facendo in tutti questi giorni. Anche qui una segnalazione che ci viene da alcuni degli aderenti a una rete di piccole imprese tessili. E che cosa succede? Succede che a dicembre si firma il contratto del sistema moda tessile, quello che va per la maggiore nella filiera e che riguarda in Italia quasi 500.000 dipendenti, e in questo contratto sottoscritto naturalmente dai sindacati e dal settore tessile moda a livello nazionale, si raggiunge un accordo per 118 euro lordi in 36 mesi e con una somma aggiuntiva, con una tantum di 250 euro lordi da erogarsi in due tranche a febbraio e a giugno 2014. Però a proposito delle polemiche che erano scoppiate la settimana scorsa su il ritardo, la concertazione, i ruoli impropri esercitati nella rappresentanza dalle associazioni sindacali da una parte, ma anche da quelle di imprese dall'altra, polemica sollevata da Renzi e da altre componenti del governo, con dure reazioni da parte dell'associazione di impresa e dei sindacati. Ecco la novità di cui parliamo oggi, perché un pezzo della filiera tessile, quella che riguarda alcune migliaia di piccole e anche piccolissime imprese che sono nel settore, ma naturalmente non stiamo parlando dei giganti internazionalizzati che magari assemblano pezzi anche lavorati all'estero e hanno catene poi di distribuzione monomarca o in franchising e così via, ma sono alcune migliaia di piccole imprese italiane che stanno nel settore ma faticano tantissimo e sono andate incontro a una durissima contrazione di ordini, fatturato e dipendenti. Dicono con il loro presidente: no ragazzi, il vostro contratto nazionale, caro ai sindacati, noi non possiamo firmarlo. Vogliamo ragionare con voi sindacati, rappresentanti dei nostri dipendenti, siccome siamo sicuri che conoscete le nostre difficoltà, che non sono quelle dei grandi gruppi, sulla base del nostro perimetro attuale, del nostro fatturato attuale, di quello che possiamo fare davvero, e però c'è poco da fare, con quel contratto nazionale noi non andiamo da nessuna parte, potremmo firmarvelo ma chiudiamo. Allora, siccome secondo me ragionare su questo tentativo di intendersi dal basso, senza confondere grandi, grandissimi gruppi, medi gruppi con chi è piccolo e se la batte in trincea in maniera molto più difficile, è il compito nostro nel dare voce a chi dal basso tenta di difendere i posti di lavoro che rimangono e sono più a rischio rispetto a chi è internazionalizzato, fa più margini lì e quindi subisce meno la contrazione della domanda interna, ecco il nostro ospite di oggi, che è esattamente il presidente di questa filiera di alcune migliaia di piccole imprese nell'ambito dei tessili. La filiera si chiama Tessili Vari ed è con noi il presidente, si chiama Matteo Cavelli. Buon pomeriggio e grazie presidente. Buon pomeriggio anche a voi, buon pomeriggio. Allora, naturalmente i sindacati non l'hanno presa bene, perché dice ma come, c'è un contratto nazionale sottoscritto a dicembre, dopo mesi di trattativa eccetera eccetera, adesso se ne esce Cavelli con i suoi e dicono non ci sono soldi. Allora, premetto che all'inizio noi abbiamo cercato di contattare il sindacato. Noi siamo una federazione che rappresenta le piccole, piccolissime imprese, siamo 1500 aziende, 15.000 addetti e riguardano gli accessori tessili. Accessori tessili che vanno dalle etichette, dalle fodere, dalle cerniere, dai tendaggi, tutta quella serie di tessili appunto vari. Noi siamo una federazione tessili vari e del cappello, che ha una tradizione assolutamente storica. E sostanzialmente abbiamo tutte piccole e medie aziende. Il primo approccio è stato, consideri che il contratto è scaduto il 31 di marzo del 2013. Certo. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo inviato ben 4 raccomandate alle associazioni sindacali per avere un incontro, per cercare di dialogare e trovare una competizione positiva sia per noi che per i lavoratori. Cosa è successo? Che in 9 mesi io non ho avuto alcuna risposta, ho mandato ben 4 raccomandate e sono stato sostanzialmente scavalcato. Perché? Perché alla fine noi siamo 15.000 addetti, siamo un po' pochini, mentre diciamo la federazione affine, un pochettino più grande della nostra, ne rappresenta 500.000. Di conseguenza allora hanno detto, una volta che noi facciamo quei 500.000 va bene anche per voi. C'è stato un piccolo problema però, e questa cosa un po' li ha sconvolti nelle logiche sindacali, che poi le andrò a spiegare, che l'altra associazione non voleva assolutamente firmare, perché si trovava in una situazione di difficoltà, avendo anche al loro interno due anime. Un'anima che è quella dei grandi gruppi, dei grossi marchi che producono all'estero, esatto, e in Italia mettono il bottone. Quindi questi giustamente, a loro non interessava tanto il problema del contratto quanto di non avere problemi all'interno delle aziende, e posso anche capirli da questo punto di vista. C'era però sempre al loro interno un'anima invece produttiva che diceva, ma scusate, siamo in una situazione di crisi, abbiamo dei fatturati che sono in picchiata e siamo penalizzati da un euro che è assolutamente inguardabile, che non ci permette di esportare, non siamo competitivi, abbiamo il costo del lavoro più alto che sia possibile, dobbiamo firmare questo contratto. Inizialmente anche loro si erano bloccati. Ricordiamo a chi ci ascolta che nel settore tessile, nella più ampia accezione, in Italia negli ultimi 10 anni noi abbiamo perso più di 300.000 addetti, erano più di 800.000, siamo rimasti a 500.000. Siamo passati da 800.000 a 500.000, esatto, e la discesa continua. Cos'è successo? Essendo l'altro contratto bloccato, allora per cercare di un po' di riaprire le trattative si sono degnati finalmente di incontrarci come piccola associazione, forse per cercare un dialogo, perché dall'altra parte il dialogo era stato completamente chiuso. Loro hanno presentato una loro piattaforma e vabbè, sui contenuti ne potremo parlare per anni, ma al di là di tutto sono le reivindicazioni sindacali che un po' rivediamo un po' in tutti i contratti, dove si cerca di tutelare il lavoratore il più possibile e di tutelare la sua retribuzione. Ognuno fa il suo mestiere, il sindacato è ovvio che sedendosi a una trattativa avanza delle richieste. Assolutamente, assolutamente legittime, infatti noi non abbiamo scartato le richieste sindacali, abbiamo proposto una nostra contropiattaforma, anche perché la parte contrattuale si divide in due, una parte economica e una parte normativa, no? Quindi la parte economica riguarda l'aumento del contatto, fisicamente che cosa si prende di più in busta. La parte invece normativa riguarda tutte quelle specificità, flessibilità, contratti a termine che alla fine vengono regolamentati nel dettaglio. Certo. Il problema è che io dopo questo contatto, un primo contatto, è successo che evidentemente la parte un pochettino più forte, che era l'altra associazione imprenditoriale, la settimana dopo questo incontro ha firmato il contratto in maniera repentina, strana, molto, molto anomala. Diciamo che lì i grandi gruppi hanno prevalso sull'anima invece dei piccoli. Allora, i grandi gruppi hanno prevalso perché hanno firmato questo contratto con 118 euro lordi di aumento per quel che riguarda il quarto livello, che era un po' quello preso come base, e che risulta oltretutto essere una cifra superiore all'ultimo rinnovo. Questa è la cosa già che è anomala, perché l'ultimo rinnovo era stato di 104 euro. Con la crisi che c'è stata, i problemi che ci sono stati, c'è stato un ulteriore aumento. Io mi sono domandato come mai, e anche l'ho chiesto all'altra. E che le hanno detto? Ma devi sapere leggere bene tra le righe del contratto, perché comunque è molto vantaggioso. Allora io ho provato, mi sono impegnato e me lo sono letto tutto quanto questo contratto, allora poi alla fine ho capito dov'era il nodo di questo contratto. Sostanzialmente l'altra associazione ha tra virgolette barattato un aumento contrattuale più o meno giusto, sacrificando la parte a monte delle aziende per cercare di regolamentare la parte a valle, ovvero il retail, i negozi monomarca. I negozi monomarca. Quindi, alla fine, ma giustamente, se uno produce all'estero e non produce in Italia, ma perché dovrebbe a un certo punto interessarsi tanto degli aumenti all'interno o del recupero di competitività, che è ancora più importante degli aumenti contrattuali? Allora, la cosa che ho chiesto io, che mi sembrava molto condivisibile, è stata: scusate, io ho queste 1500 aziende, di queste 1500 aziende il 40% degli addetti sta utilizzando ammortizzatori sociali, cassa integrazione e solidarietà, le altre ci stanno entrando, non tutte, fortunatamente non tutte, diciamo che c'è un 20% sano, ma sa perché è sano questo 20%? Perché per assurdo non è nel settore tessile propriamente inteso. Certo. Perché si tratta ad esempio di aziende che fanno freni, frizioni per auto, che e quindi hanno altri settori che hanno segnale di ripresa già che no, si manifesta. Sono delle eccellenze assolute, ma non riguardano il nostro settore. Esatto. Tant'è che mi dicono: guardate, che noi siamo molto contenti del vostro contratto, perché rispetto a un contratto meccanico è chiaro che è più conveniente. Manca 13, 14, 15, ma gli manca tutto. Insomma, quindi alla fine anche un piccolo aumento a loro non sarebbe cambiato nulla. Ecco, e allora a quel punto lei ha detto: guardate, la nostra situazione è diversa, noi non abbiamo i negozi monomarca, eccetera, eccetera, abbiamo il 40% delle aziende iscritte alla nostra associazione con gli ammortizzatori sociali, sindacato, vediamo un pochino come possiamo intenderci tra noi. Adesso abbiamo 60 secondi di informazione sulle strade e poi torniamo a vedere cosa il sindacato le ha risposto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta. Intanto riprendo a leggere un po' di messaggi, anzi inizio oggi a leggere un po' di messaggi, ma dicevo riprendo un po' il tema a cui abbiamo cominciato, il tema del giorno, perché i messaggi che ci arrivano sono un po' tutti un po' a senso unico, nel senso che qui c'è una stragrande maggioranza di ascoltatori, non è un sondaggio, sono quelli che ce lo mandano al 349-238-6666, che però sono per la tesi che questo capo di accusa della Procura di Brescia, cioè associazione a fini di terrorismo, sia quantomeno sproporzionato. Ne leggo alcuni a caso: in Veneto questa accusa contro gli indipendenti, da quello che ho capito parlando con un po' di gente, non ci crede per il momento nessuna, lo Stato sta esagerando. Poi c'è chi dà solidarietà agli arrestati, questo GIP autorizzando un simile capo d'accusa, dice un altro ascoltatore, mi fa un po' ridere, ma non avrebbero di meglio da fare a cercare la corruzione, dice un altro. Altri dice: ovvio che l'accusa è gravissima, però è un passo falso usare proprio accuse gravissime, magari mentre si potevano utilizzare altri capi di imputazione assai meno gravi. Questa è la mia stessa opinione, a dire la verità, perché un conto è perseguire delitti di armi che non si possono né costruire né detenere legalmente, altro coso il terrorismo, appunto. E dopodiché ce ne sono tantissimi, e poi ce ne sono anche alcune che dicono: i sindacati quando si tratta di grandi contratti a livello nazionale purtroppo rischiano di essere fuori dal mondo, ma anche da parte delle associazioni di impresa nel contratto nazionale si rischia di essere fuori dal mondo, perché i piccoli hanno esigenze esigenze, ci scrive un ascoltatore, diverse da chi prevale nella rappresentanza. Esattamente questo è il centro della puntata di oggi con il nostro ospite Matteo Cavelli, presidente di Tesseri Vari, che vi ha spiegato quali erano le premesse per le quali alla fine il sindacato nazionale di categoria con l'associazione maggiore ha chiuso un contratto che è nell'interesse dei grandi gruppi che in realtà assemblano pezzi ma prodotti all'estero nella filiera del tessile e poi c'è nei negozi monomarca, ma che invece non vanno bene per la filiera più piccola che ha oltretutto il 40% degli iscritti che sono in fase di ammortizzatori sociali. Quando lei l'ha fatto presente, chiuso il contratto dall'altra parte, Cavelli, il sindacato le ha risposto? Guardi, il sindacato una volta chiuso il contratto con l'altra associazione si è presentato come vittorioso nel tavolo contrattuale dicendo ormai voglio dire cosa potete fare voi, abbiamo firmato e quindi non avete nessuna scelta. Ci hanno detto possiamo guardare da un punto di vista normativo se avete delle esigenze particolari, ma da un punto di vista economico noi siamo irremovibili. Benissimo, ho detto, scusate, io posso intervenire, mi sono permesso di intervenire perché sembrava già tutto scritto, ho detto, io sono presidente di questa associazione, ma prima di essere il presidente sono imprenditore, io non prendo un centesimo per essere certo. Presidente nell'associazione, quindi difendo le imprese e difendendo le imprese devo fare il loro interesse e questo è sacrosanto. Ho detto, io ho letto bene l'accordo che avete sottoscritto e trovo degli elementi assolutamente incredibili, nel senso che uno di questi è l'elemento di garanzia retributiva, che vuol dire che chi non ha nessuna contrattazione aziendale all'interno deve versare 200 euro per dipendente annui perché non ha la contrattazione aziendale, ovvero non c'è il sindacato quindi paghi. Ma scusate, allora sono stati furbi, perché io che seguo le contrattazioni sindacali ormai da 10 anni, 8 anni fa questo elemento non c'era. 4 anni fa è stato inserito come una tantum, ma evidentemente da una tantum hanno trasformato con un po' di carenze nel lessico latino e l'hanno trasformato in ogni tanto. Quindi è passato da una tantum, una volta sola, a tutti gli anni. Me lo sono ritrovato, perché poi lei deve considerare che il contratto viene scritto pagina a pagina e corretto, quindi deve stare molto attento a quello che viene scritto perché gli inganni sono dietro l'angolo. Questa cosa per le aziende medio-piccole come le nostre è assolutamente un costo senza nessun ritorno di competitività. No, certo. Poi ho detto, io ho un'azienda che ha 60 dipendenti, ma ho anche un ricamificio che ne ha 3. Un bel giorno mi si presenta uno dei 3 e mi dice, io sarei il delegato di fabbrica. Faccio, cos'è che sei tu? Ho detto, abbiamo 3 macchine, dobbiamo lavorare, adesso ci manca solo la prima cosa che ho fatto, ho chiamato l'Unione Industriale e ho detto, da domani io non sono più in Confindustria, perché non esiste una cosa del genere. È una cosa che non sa neanche dove è saltata fuori. Cioè, per far capire che quando uno ha una piccolissima azienda non può essere vincolato ad avere un delegato sindacale, perché poi oggi, signor Giannino, la cosa fondamentale è che uno oggi è iscritto ai sindacati fondamentalmente per 2 motivi. O per avere dei permessi, perché parliamoci chiaro, o per avere dei permessi, oppure perché deve compilare il 730, di conseguenza deve andare al CAF. Naturalmente lei adesso fa un'affermazione così radicale che alcuni direbbero questo è il classico imprenditore che nega la funzione centrale della rappresentanza del sindacato. Sto dicendo soprattutto nelle piccolissime aziende. Allora, nelle piccole aziende ormai il contratto viene fatto direttamente. Quando ci sono da fare degli aumenti, quando c'è da dare un premio, si cerca di trovare il sistema migliore per cercare di evitare anche al dipendente di non pagare tutte queste tasse che poi alla fine non gli permettono di portare a casa una retribuzione. Allora, questa è la mia opinione, che questo è il classico esempio che dimostra come il massimo decentramento della contrattazione, sia per la parte salariale, ma io intendo anche alcuni aspetti essenziali di quella normativa, secondo me più si decentra vicino all'azienda, più centriamo la taglia dimensionale prevalente del problema italiano, che è quella della piccola e piccolissima impresa e dei lavoratori della piccola e piccolissima impresa. Questa roba non è fare gli interessi del padrone, come si diceva con la vecchia denominazione. È una cosa che si attaglia alle esigenze italiane. La contrattazione centralizzata nazionale, sia del salario che della parte integrativa, nei massimali, sia di quella normativa, nasce con l'idea che tutte le aziende italiane diventavano da media a grandi a grandissime. È accaduto l'esatto opposto e quindi questo esempio dovrebbe fare molto riflettere. Io spero di portare presto anche alcuni sindacalisti a riflettere su questo, perché poi altrimenti non si spiega perché in realtà il sindacato, nella sua totalità degli iscritti, ha per il 49% pensionati e sul totale delle forze al lavoro italiano è meno del 50%, capite? Perché a furia di avere solo vecchi e di non avere i non tutelati, quelli che hanno i contratti a tempo determinato, quelli che se la battono con le imprese che se la battono con maggior difficoltà, cioè appunto tutti i più giovani, ecco che diventa un sindacato che firmerà i contratti nazionali, ma nel frattempo le imprese chiudono e la disoccupazione aumenta. Non vedo un grande interesse da perseguire per il sindacato. Sentiamo rapidamente una telefonata, Giuseppe da Belluno, che crede sia sulle cose venete, poi torniamo a concludere con Matteo Cavalli. Allora, Giuseppe, che pensi di questa bella raffica di arresti? Buongiorno Giannino, complimenti per la trasmissione e la mia solidarietà si capisce subito quando parla un imprenditore. Quello di prima che ha parlato è un imprenditore che, attenzione, non vuol dire fare solo gli interessi suoi, vuol dire fare gli interessi anche dei lavoratori, perché se lui continua a lavorare vuol dire che ci sono dei dipendenti che lavorano e che percepiscono uno stipendio. Ecco. Allora, dopo questa premessa, sì, condivido molto quello che ha detto lei. Praticamente stiamo andando verso una dittatura di sinistra dove chi non la pensa come deve pensarla viene represso. È quello che sta succedendo. Quindi adesso con questo in movimento ci sono gli oltransisti e quelli poi la gente comune. Chiaramente quelli che stanno nel mezzo, quando vedono questo arresto, prendono paura, quindi loro vogliono fermare in questo modo la protesta nazionale. Esatto, io tenderei come lei a distinguere moltissimo il fenomeno di protesta per gli eccessi di spesa e di fisco che sono dietro questa cosa e quindi che riguardano la stragrande maggioranza della gente, magari da una pattuglia di esaltati che a telefono ha detto delle cose, magari anche reati, però l'idea di fare una retata con terrorismo, ripeto, in Italia non lo abbiamo fatto per le reti jihadiste, per non inimicarcela, a me pare una cosa fuori dal mondo, e lo dico con pieno rispetto per i magistrati, la loro autonomia e la loro indipendenza. Torniamo a chiudere con lei. Come finirà a questo punto la richiesta dei suoi associati con il sindacato di fare un contratto diverso? Allora, guardi, io ho avuto contatti un po' con tutte le aziende che sono assolutamente, mi appoggiano al 100%, anche le aziende più grandi, anche aziende di 300 e passa. E quindi andrete avanti? E diciamo che io comunque, perché ripeto, io non ho detto che non voglio dare gli aumenti, ma voglio recuperare la competitività. Per cui voi terrete duro. Allora Cavalli, noi la richiamiamo per vedere quali sono gli sviluppi. Continuate con Radio 24, intanto appuntamento con me a domani.